che interessa partecipare. So dimmi com'è, io chiuderei a volte un nostro in cassetto, a volte in tre. Già tra le cose ne faccio un dramma e resto sola tra me e resto. Faccio finta onesto se mischio il dolore. Dirti cosa ho perso, dirti ciò che penso. Faccio finta e mento. E se lascio andare tutto adesso, solo questo viaggio resta impresso. E io imparo giusto un mondo inverso e resto ferma a pensare che il silenzio a parlare. Intanto penso che quella fotografia ferma a guardare. Vorrei fare un salto lì senza sentirmi stronza, che oggi ho solo voglia di ascoltare. Ma se non lo sentissi, dico ma guarda che dramma recito. Perché silenzio non resta mai zitto. Dentro sto mondo non la disfondo tutto. Se non sei dentro mi è triste, dubbi dei giorni di noi e capricci. Dramma mi guarda non resta mai zitto. Tutto qua intorno non la disfondo e brucio. Non ne faccio un dramma e resto sola tra me. Non faccio finta onesto se mischio il dolore. Dirti cosa ho perso, dirti ciò che penso. Faccio finta e mento. E se lascio andare tutto adesso, solo questo viaggio resta impresso. E io imparo giusto un po'.